è una piccola postilla alla registrazione di poco fa. Adesso sono le 10:18, sempre di domenica 7 aprile. Perché ho dimenticato di raccontare una circostanza personale in cui rimasi invischiato in queste questioni identitarie legate ai linguaggi, a come debbano cambiare, a cosa si può dire, a cosa non si può dire, il politically correct e anche, ovviamente, la cosiddetta cultura woke, detto in modo più o meno dispregiativo. E infine il tema spinosissimo, come dice Giovanni Bocciattieri nel suo post su Mediamondo, della cosiddetta cancel culture. Io ricordo che durante l'esplosione del dibattito sulla cancel culture, che magari in estrema sintesi dovrei provare a spiegare che cosa ho capito essere, per chi non lo sappia, cioè fondamentalmente la tendenza, a causa di una serie di riflessi di livore linguistico, di trionfo del politically correct, la tendenza a eliminare tracce della nostra storia visibili perché considerate discriminatorie o insultanti o razziste, lette, viste con gli occhi di oggi. E quindi appunto la tendenza a cancellare i segni di quel passato di cui vorremmo liberarci, perché quei segni evidentemente non meriterebbero nemmeno memoria, perché sarebbero diseducativi, perché anzi inciterebbero al ritorno di certi spettri. Ci sono tanti esempi, cioè, che so, la polemica sul fatto che alcuni canali televisivi americani a un certo punto hanno smesso di trasmettere Via col vento e poi l'hanno sì dovuta mandare in onda, ma con prima un cartello che spiegava la distanza dalla volontà editoriale del canale rispetto a certi pregiudizi e schemi triti nella rappresentazione dei personaggi. Oppure, vabbè, banalmente, insomma, tutti i disclaimer che vediamo spesso, no, accanto a fotografie degli anni 20, degli anni 30, ma anche degli anni 50, in cui vengono rappresentate minoranze in modo comunque discriminatorio, dispregiativo, non solo su base razziale, ma anche su base di genere. Se pensiamo a tutte le pubblicità degli anni 50, 60, in cui la donna veniva rappresentata sempre e comunque all'interno di un certo ruolo nella casa, nella famiglia. Ci sono delle bellissime collezioni di spot sessisti, per esempio, degli anni 50 e 60 su YouTube. Invito a vederli perché sono molto indicativi. Ecco, però il fatto di invitare a vederli già significa che evidentemente qualcuno non li ha cancellati, no? E quindi correttamente contestualizzati hanno semmai l'effetto di sensibilizzare sul tema. Ed è un po' questo, diciamo, il punto su cui sono rimasto incastrato una volta, perché ebbi l'ardire di esprimere un'opinione sul fatto che secondo me il famoso obelisco con la scritta Mussolini Dux, che si trova al Foro Italico davanti alla fontana della sfera dello Stadio Olimpico, secondo me non va rimosso e non bisogna cancellare la scritta Mussolini Dux. Tra l'altro trovo assolutamente ridicolo che siano state trattate in qualche modo in una forma di rivisitazione storica anche tutte le pietre miliari che riportavano i passi delle conquiste del ventennio fascista, con l'aggiunta alla fine di alcune altre pietre miliari che rispettavano lo stile e il linguaggio architettonico del luogo, per però dire invece che altre tappe miliari erano state la liberazione del fascismo. Quindi l'effetto è abbastanza comico, perché tu vedi in uno stile classicheggiante, neoimperialista, con lettere scolpite sul marmo, che appartengono assolutamente al linguaggio dell'architettura e dell'ideologia del tempo, vedi scritte cose che riguardano invece le conquiste della Costituzione Repubblicana. Io trovo che questo abbia un effetto assolutamente comico e ti dimostra come può essere drammaticamente fallimentare un'operazione di rivisitazione. Io sono per lasciare le testimonianze del passato così come sono in certi casi, se correttamente contestualizzate. Ecco, questo sarebbe opportuno. Ma cancellare, per esempio, la scritta Mussolini Dux è qualcosa alla quale si oppose per primo Palmiro Togliatti negli anni 50, quando venne a tenere nello stadio olimpico un famoso comizio, interpellato sulla persistenza di quel simbolo, il monolito, che poi a sua volta fu frutto di un racconto retorico sull'impresa del trasporto dal blocco originario di marmo di Ferrara attraverso le chiatte che percorsero il Tevere per poterlo poi depositare e sollevare. Quindi dietro c'era quel monolito, c'era anche un altro pezzo di racconto dell'epica fascista. Ecco, Togliatti disse: no, se noi cancellassimo questa scritta e rimuovessimo il monolito, sarebbe come dire che abbiamo paura di questi spettri, anzi è bene che rimangano a testimonianza di quello che non deve tornare. Nessuno si diciamo così inalberò. Perché? Perché forse, come dire, venivamo solo pochi anni prima dall'aver toccato con mano l'oppressione del regime, e quindi l'esperienza diretta, no, del fascismo dava ai liberatori del fascismo un'autorità che gli permetteva di essere seguiti senza troppe discussioni su quello che poteva essere il modo per affrontare il nostro passato, no? E invece oggi, dove dire qualcosa su una piattaforma di social media produce delle rendite che vanno molto al di là del merito delle posizioni che prendiamo, no, fa sì che, insomma, fu molto facile ottenere tanti like commentando in modo anche piuttosto violento la mia presa di posizione allora. E è partito un classico flame sul significato delle parole, sul significato dei linguaggi, sulle retoriche tossiche. Ecco, io francamente non credo che, se in Italia esistano dei rigurgiti di neofascismo, e sia perché abbiamo lasciato l'obelisco Mussolini Dux, io credo che sia proprio perché molto spesso prendere certe posizioni funziona per alzare la voce, essere visti, riconosciuti, e temo che sia abbastanza trasversale alle varie posizioni ideologiche.